Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Alle 17:10 minuti inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, il giorno dopo l'annuncio della Fiat, ma anche il nulla di fatto, sebbene insomma ci siano stati dei passi in avanti sulla vicenda Electrolux, e ne parleremo per capire esattamente. Insomma, il tema di rimente è: il problema è che la Fiat va a pagare le tasse in Gran Bretagna da un lato, e il problema è, per quello che riguarda la vicenda Electrolux, avvicinarsi e cercare di competere con i salari polacchi. Ovviamente la risposta a mio avviso è no in tutti e due i casi. L'abbiamo già chiarito anche ieri, esistono diverse fiscalità in Europa, non solo nell'area euro, e un'impresa legalmente può trasferire la sua residenza fiscale dove ritiene più opportuno. Il problema, se poi l'Italia ha una pressione fiscale allucinante per le imprese, è un problema dell'Italia che può risolvere solo l'Italia, riducendo la pressione fiscale sulle imprese e magari trovando le risorse attraverso una spesa pubblica più razionalizzata, quindi più efficiente e anche più bassa. Ok, questo o reperendo altre risorse, ma non possiamo dare la colpa agli altri se hanno una tassazione fiscale sulle imprese più bassa. Detto ciò, a mio avviso sulla Fiat resta il tema della sede operativa e dell'impegno nei confronti dell'Italia, più che della parte fiscale. Per la vicenda Electrolux, anche qui la risposta è no, non ha senso rincorrere i salari polacchi, vi sarà sempre un polacco, un cinese, un turco che prenderà meno soldi di un italiano. Il problema è aumentare la produttività e il valore aggiunto per unità di prodotto, fermo restando che abbiamo anche casi diversi. Uno su tutti è la vicenda Whirlpool, perché ha trasferito parte della sua produzione in Italia perché trova le competenze e il know-how. Di questo ci occuperemo in apertura. Poi, come sempre, la borsa, che è oggi leggermente positiva, scusatemi, più 0,20% Milano, più 0,30 Parigi, più 0,20 Francoforte, più 0,48 l'America e meno 0,22 Londra. Bene, ST Microelectronics più 4,40, Banco Popolare più 3,90, Fiat più 2,70, Tenaris più 2,40, Ubi più 2, Enel più 1,5 come Unipolsai, World Duty Free guadagna l'1,40, Mediobanca l'1,20, Telecom più 1 come Mediaset e Autogrill. Di debole di nuovo oggi tutto il lusso, in particolar modo la vicenda di oggi si chiama Tod's crolla dell'8% oggi in borsa. Dicevo debole il lusso anche perché per esempio Ferragamo perde l'1,60%, ma Luxottica invece non la segue in questo calo, perché però Tod's ha un calo superiore. Beh, ci sono i dati trimestrali che sono nettamente inferiori alle attese. Devo dire che oggi è debole anche Pirelli, meno 6, più che debole, meno 6,80%. Ieri vi è stata una fiammata del 7%, smentita oggi l'ipotesi di acquisto a parte di Goldman Sachs di una quota di Pirelli. CNH Industrial, quindi gruppo Fiat, sarebbe Case New Holland, meno 3,41%, Campari meno 2, Ferragamo meno 1,5, Pop Emilia Romagna meno 1, Unicredit meno 0,90, Atlantia meno 0,80%. Parleremo quindi da un lato della vicenda Electrolux Fiat, dall'altro del tentativo di accordo per il rientro dei capitali dalla Svizzera. Oggi infatti l'incontro tra il ministro dell'economia Saccomanni e il suo omologo che è la Svizzera, Evelyn Widner-Schlumpf. Incontro che ha smentito a varie indiscrezioni di stampa secondo cui le trattative tra Svizzera e Italia si sarebbero interrotte sul nodo fiscale e sui fondi in nero detenuti dai residenti italiani. Chiuderemo poi sempre con il fisco, perché oggi appuntamento annuale importantissimo qui al Sole 24 Ore, con i collegamenti in oltre 100 sedi in Italia, collegamenti anche in streaming. Telefisco, 23esima edizione, ospite qui a Sole 24 Ore, Attilio Beffera, direttore dell'Agenzia delle Entrate, che ha chiarito, attenzione, noi siamo pronti con il redditometro, i controlli non saranno esagerati, il rientro dei capitali della Svizzera non è un condono, l'evasione fiscale definita da Beffera un limite della democrazia, e ancora dice Beffera che c'è un segnale che i capitali vogliono rientrare. Speriamo che abbia ragione. 349 238 6666 per i vostri SMS e la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, non torno sulla vicenda di Banca Italia, la nostra posizione l'abbiamo espressa ieri chiaramente, a mio avviso la possibilità che hanno le banche italiane di vendere provvisoriamente la quota, o meglio la possibilità che la Banca d'Italia di comprare le quote che le banche italiane devono cedere dalla stessa Banca d'Italia, la quota superiore al 3%, questo prevede infatti la legge. Beh, dare la possibilità che questa quota venga comprata dalla Banca d'Italia temporaneamente, non si capisce poi cosa voglia dire questo temporaneamente, tant'è che la stessa Banca Centrale Europea di Mario Draghi si è lamentata di questa assenza di un tempo definito, è un regalo alle banche. Non me ne frega nulla se l'ABI mi chiama, mi scrive dicendo che sembriamo l'associazione dei consumatori, abbiate pazienza, voi difendete le banche, però c'è stimato un regalo di 4 miliardi, se le banche italiane dovessero, quelle coinvolte, cedere le quote in eccesso alla Banca d'Italia senza collocarle sul mercato, e quindi dovendo andare incontro a domande e offerte e vediamo a quale prezzo, stando ai calcoli che abbiamo visto, fatti da economisti che non sono dell'associazione dei consumatori e non sono dei potenziali comunisti, insegnano nelle università italiane che si chiamano Cattolica, Bocconi e quant'altro, ci potrebbe essere un vantaggio per le banche di 4 miliardi e mezzo. Si è mai visto in qualche paese che la banca centrale abbia la possibilità di acquistare le quote che le banche sui azionisti non riescono a collocare sul mercato? Allora, chiamatelo Mario, chiamatelo Bruno, chiamatelo Maria, ma sempre un regalo alle banche è. Va buono, andiamo avanti, dai, che è meglio per quello che riguarda le notizie che arrivano dall'estero e soprattutto dagli Stati Uniti. Il PIL americano è salito dell'1,9% l'anno scorso, il dato definitivo, dopo un più 2,8 del 2012, molto forte nell'ultimo trimestre, più 3,2% grazie ai consumi. Sarà un caso, ma l'America, lo diciamo ogni volta, che ha adottato linee completamente diverse dall'Europa, dall'area euro, completamente opposte al rigore tedesco, beh, ha visto crescere i consumi ai massimi dagli ultimi 3 anni, l'andamento dei consumi americani. E adesso l'America continua il tapering, cioè la riduzione dello stampaggio di dollari, è già scesa da 85 miliardi al mese di dollari stampati a 75, adesso da 75 a 65 miliardi. La Banca Centrale Europea, veniamo all'Europa, sostiene, dopo un sondaggio trimestrale sui prestiti bancari, che le banche potrebbero smettere di chiudere i rubinetti dei prestiti, dei crediti alle imprese. Ci sarebbero segnali di una nuova propensione delle banche europee a riaprire i rubinetti alle famiglie e alle imprese. Quindi anche la Banca Centrale Europea ritiene che questi rubinetti siano stati chiusi. Poi ogni volta che noi parliamo con le banche italiane e con chi le rappresenta ci viene detto che non è vero, che erogano di più, che i rubinetti non sono chiusi. Vabbè. Lo spread italiano si attesta a 215 punti dopo l'asta del tesoro, e il rendimento è al 3,85%. L'asta com'è andata? Buona l'asta, cioè abbiamo dovuto offrire solo il 2,43% di rendimento per trovare compratori per il nostro debito a 5 anni, quindi BTP a 5 anni, tutti assegnati 4 miliardi oggi. Siamo praticamente vicini al minimo storico, a dicembre abbiamo dovuto offrire il 2,70%, adesso il 2,40%. Bene anche quello che abbiamo dovuto offrire per trovare compratori per il nostro debito a 10 anni, cioè il BTP a 10 anni, il tasso è sceso sotto il 4% al 3,81%, che vuol dire che lo Stato italiano, cioè tutti noi, pagheremo meno, stiamo pagando meno per trovare compratori per il nostro debito. Dalla regia che ho detto 115, no, sono 215 punti, magari fossero 115, ma comunque, ripeto, ottimo andamento dell'asta oggi sia dei BTP a 5 anni che dei BTP a 10 anni. Nel frattempo l'Eurispes arriva, dopo altri rapporti, a segnalare che la situazione per le famiglie italiane è peggiorata anche nel 2013, è peggiorata per l'88% delle famiglie, per il 70% vi è stato un calo del potere d'acquisto, un italiano su tre non arriva a fine mese con lo stipendio, in molti sono colpiti dalla sindrome della terza, quarta settimana, cioè quando i soldi iniziano a finire. I lavoratori italiani fotografati da Eurispes sono per due terzi insicuri e stressati e quasi uno su quattro sarebbe pronto a espatriare. La regione Sicilia ha ancora bloccato il budget, cioè non riesce a essere pubblicato sulla gazzetta ufficiale il bilancio della regione, e nei bagni del Parlamento siciliano, della regione Sicilia, mancano a questo punto anche la carta igienica e le salviettine, un disagio che accomuna dirigenti, funzionari, commessi, ma anche i deputati regionali. Verrebbe da dire che la carta igienica è un po' la livella di Totò, però posso dire una cosa, magari anticipando anche un po' di i soldi, io penso che i consiglieri regionali della Sicilia possono permettersi di acquistare la carta igienica e le salviette. Abbiamo raccontato molte volte le indennità, gli stipendi, quanto costa quell'assemblea, e comprate un po' di carta igienica. Lo facciamo noi genitori da anni nei confronti dei nostri figli, quando vanno all'asilo, quando vanno a scuola ci viene chiesta la carta igienica, lo potete fare anche voi, fermo restando che speriamo che si sblocchi la vicenda. L'assemblea attende di ricevere dalla regione i trasferimenti in totale 149 milioni di euro. Dicevo di Befera e della voglia di rientro di capitali, del redditometro, i controlli non saranno esagerati. Attilio Befera, numero uno dell'Agenzia delle Entrate, ha anche chiarito alla nostra Maria Luisa Pezzali che l'obiettivo è quello di rendere di ridurre il più possibile l'eventuale contenzioso col fisco. Abbiamo fatto degli importanti corsi di formazione per i nostri uomini per quanto riguarda il contraddittorio, il rapporto con il contribuente, che deve essere un contraddittorio ispirato al massimo al rapporto di fiducia e di reciproca fiducia. Intendiamo partire con il piede giusto. Credo che in questo senso il contenzioso non potrà essere elevatissimo. Speriamo che non ci siano errori materiali, ma quello che abbiamo detto ai nostri uomini, se c'è l'errore, se c'è l'ipotesi di errore, bloccare subito tutto e rinunciare a quell'attività. Allora, alcune risposte agli ascoltatori. No, non abbiamo dimenticato la rubrica sugli sprechi, non possiamo farlo ogni giorno, cerchiamo di accorparla. Certo che nell'inchiesta sui falsi braccianti fatta dalla Guardia di Finanza oggi a Catanzaro, arrestato anche un imprenditore agricolo, Annibale Notaris, e il commercialista Antonio Porcaro, pensate che tra i beni sequestrati c'è anche una Porsche intestata ad un bambino di 11 anni. Mamma mia, va bene che sono precoci i ragazzini adesso, però a 11 anni già guidare la Porsche, imparentato con Notaris, che comunque la usava lui la Porsche. Sequestrati anche 13 fabbricati, un frantoio terreni, 15 autoveicoli e conti correnti. Parleremo dopo di Alitalia e di Sawiris, perché adesso vorrei invece arrivare subito al primo tema, e cioè cosa lega la crisi Electrolux e il piano Fiat. Intanto il segretario della CISL, Raffaele Bonanni, intervenuto questa mattina a Mix 24 con Giovanni Minoli sugli sviluppi del caso Electrolux. Bisogna bisogna cancellare tutte le sfasature di sistema dentro le aziende e fuori dalle aziende. Questo è l'unico modo per rendere competitive le nostre produzioni. Senta, lo diciamo da diverso tempo, sì. Assisteremo continuamente a smantellamenti di posti di lavoro. Ecco, però l'incontro col governo di ieri e con la società ha prodotto qualcosa o parole come sempre? Ma ci sarà un altro incontro, sì, 17 febbraio. Questo comunque va bene, solo che mi preoccupo quando si sostiene da parte delle regioni ci metterò dei soldi e quando da parte dello Stato ci metterò dei soldi. Mi preoccupa moltissimo perché il problema non è dare soldi che al prima acqua inutile. Si mangia di nuovo. Il problema vero è intervenire sull'energia, sulle infrastrutture, sulla autorizzazione di ogni cosa che fa l'azienda, sui costi dei servizi comuni e così via. E vedo che la classe dirigente su questo non ci sente. Allora, teniamo insieme le due vicende. Ne ha scritto oggi un economista che ogni tanto invitiamo, Giorgio Barba Navaretti, docente di economia internazionale alla Statale di Milano. Dicevo, ne ha scritto oggi sul Sole 24 Ore: l'opzione polacca non esiste. Buonasera, professore. Buonasera a voi. Noi ricordavamo il terrore dell'idraulico polacco, e vabbè, poi ci furono anche campagne pubblicitarie abbastanza ironiche sull'idraulico polacco. Però c'è un punto, a mio avviso, dirimente nel suo intervento di oggi sul Sole 24 Ore, e cioè, partiamo da qui: se dobbiamo inseguire il costo del salario, il costo della vita della Polonia, della Turchia, della Cina, ci sarà sempre una Polonia, una Cina, una Turchia che costa meno di noi. Allora, come se ne esce su questo primo aspetto? Allora, secondo me, appunto, non è possibile pensare di ridurre le condizioni di vita dei lavoratori e dei salari oltremodo. Chiaramente ci sono dei modi che sono stati anche proposti dall'Unione Industriale di Pordenone, cioè di rendere più flessibile l'attività di lavoro e magari cercare di incidere su quelle che sono, se vogliamo, le punte di remunerazione salariale che oggi non sono più sostenibili. Però di fatto la cosa fondamentale è che le aziende italiane, per sopravvivere in Italia, hanno bisogno di creare valore aggiunto e produttività. Quindi l'unico modo è quello di spostarci lentamente verso la produzione di alta gamma che permette di ridurre in qualche modo l'incidenza del costo del lavoro, e quindi avremo lavoratori più produttivi che possono anche essere pagati meglio, ovviamente meglio degli operai polacchi. L'altra strada, ecco, è una strada non perseguibile. Ecco, tant'è che in Germania non è che il costo del lavoro sia, noi usiamo sempre la Germania come riferimento, tra l'altro visto che Angela Merkel adesso sta proponendo, lo scrive bene oggi Roberta Miraglia, sempre su Sole 24 Ore, sta proponendo l'abbassamento dell'età pensionabile da 67 a 63 anni senza penalità, costerebbe 120 miliardi. Allora, ogni paese può fare quello che vuole. No, mi fa impazzire però che la Germania, che chiede a tutti sacrifici e in altre riforme, innalzare l'età pensionabile, poi va a abbassarla mollando un po' le riforme di Schröder, che hanno permesso alla Germania stessa poi di trovarsi in una posizione di forza quando è scoppiata la crisi. No, dico, quantomeno come allure, rompere le scatole a tutti i paesi su il deficit, il debito e il tirare la cinghia, e poi tu scialare sulle pensioni non è bellissimo da vedere. Ma detto ciò, non è che la Germania abbia un costo del lavoro più basso del nostro, eppure non ha problemi. Cioè, non è che lì la Germania si metta in concorrenza con la Turchia o con la Polonia. No, la Germania non ha problemi, certamente la Germania ha la possibilità di fare contratti di lavoro a livello delle singole aziende che in alcuni casi garantiscono maggiori flessibilità di quelli che abbiamo noi, e quindi forse questo permette una migliore organizzazione del lavoro, ma in media i salari tedeschi, anche tenendo conto di quelli che sono gli oneri fiscali e contributivi, sono più elevati di quelli italiani, quindi il costo del lavoro in Germania è più elevato, però la Germania è più efficiente, più produttiva, riesce ad essere spostata verso un valore aggiunto più alto e quindi in qualche modo riesce a sostenere questi salari. Allora, oggi, mentre a Susegana è ripreso il lavoro lo stabilimento veneto trevisano dell'Electrolux, domani le assemblee, sciopero invece e presidio sindacale nell'impianto lombardo, quello di Solaro, provincia di Milano, E a Porcia prosegue il blocco, quello in provincia di Friuli, di Pordenone, in Friuli, che è quello più a rischio. Prosegue il blocco delle merci, gli scioperi. Lunedì vi sarà il coordinamento a Mestre dei vari sindacati dell'Electrolux per una manifestazione di protesta. Dicevo, mentre questo avviene all'Electrolux, ci sono due notizie che vanno in controtendenza. Lo scorso 22 gennaio Whirlpool ha annunciato la chiusura della fabbrica svedese per trasferire la produzione in una nuova fabbrica nel Varesotto, a Cassinetta di Biandrono, dove si trova già comunque il principale centro della Whirlpool. E ancora, oggi sappiamo che veniamo a conoscenza del fatto che la cinese Haier punta sull'Italia, la Haier è una multinazionale cinese, punta sull'Italia e sulla Francia per espandersi al di fuori del mercato asiatico nel settore degli smartphone e dei tablet. L'obiettivo è arrivare a produrre in Italia 150.000 pezzi di telefonia nel 2014. La Haier, che magari alcuni non la conoscono, ma è il leader mondiale nel settore dei grandi elettrodomestici, ha chiuso l'anno il 2013 con un fatturato in Italia di 85 milioni di euro e ha un altro sito produttivo a Campodoro in provincia di Padova, dove vengono prodotti pezzi per frigoriferi e climatizzatori. Quindi non è vero, Baba Navaletti, che non si possa produrre in Italia. No, in Italia certamente si può produrre cose dal più alto valore aggiunto, come dicevamo prima. Per esempio, nel caso della Whirlpool, i forni da incasso che farà la Whirlpool a Varese sono delle merci che appunto riescono ad essere vendute con margini più elevati, perché fra l'altro vengono integrati poi alla costruzione di cucine. Siccome l'Italia è specializzata nei mobili della cucina, si riesce a fare un'integrazione virtuosa tra settori diversi, e quindi in questo caso ci sono margini per mantenere le nostre attività qua. Purtroppo andiamo verso un'evoluzione della manifattura dove si deve creare sempre più valore aggiunto con meno operai, quindi è implicito purtroppo che questa evoluzione crei dei problemi occupazionali di transizione dei lavori verso altre attività. Non c'è niente da fare. Ma quali altre attività? Servizi oppure la parte, diciamo, meno di operaio e più di ricerca e know-how e quant'altro? Chiedo. In parte appunto attività manifatturiere che poco a poco si spostano verso attività che sono sostenibili ad alto valore aggiunto, come quelle che aveva citato lei per gli investimenti cinesi o i forni della Whirlpool, che comunque già rappresentano una quota molto importante del fatturato industriale italiano, e in parte naturalmente verso servizi e altre attività. Questo appunto, la perdita di occupazione manifatturiera non significa che il manifatturiero debba calare, è che dobbiamo trasformarci verso attività che hanno maggiore valore aggiunto. Certo, effettivamente il problema occupazionale rimane, ed è per questo è giusto che ci si preoccupi di cosa stia succedendo negli impianti Electrolux, però qualunque cosa si faccia bisogna ragionare su un'evoluzione di lungo periodo che permetta a quei settori e quelle attività di essere sostenibili, nonostante ci continuerà ad essere la concorrenza dei cinesi o dei polacchi che producono a un costo più basso del nostro. E quindi la parte anche più di servizi, la parte commerciale, la parte di assistenza. Noi sappiamo che nei mercati lontani vinci anche, ce lo dicono spesso gli imprenditori, quando tu garantisci non solo il prodotto ma l'assistenza al prodotto, la rete commerciale, cioè tutte cose che necessitano investimenti e persone. Esatto. Chiaramente in un processo che non può avvenire in un anno, in un mese, un processo che porta ad avere meno operai in senso stretto e più addetti invece, e quindi impiegati, dipendenti di quell'impresa che fanno altre mansioni a valore aggiunto. Mi dica un'ultima cosa, Barba Navaretti, che cos'è che non le piace del piano Fiat invece, e che cos'è che invece trovo una critica ingiusta al piano Fiat? No, io penso che il piano Fiat sia comunque un'operazione industriale molto importante che ci permetterà, penso, di mantenere attività industriali anche di alto livello nel nostro paese, quindi questo è importantissimo. Quello che non mi piace è che effettivamente poi le condizioni, se vogliamo, del nostro paese di operare, sia fiscale che da un punto di vista della corporate governance eccetera, non sono delle condizioni che sono appetibili per dei grandi gruppi internazionali che devono operare su più mercati con degli azionisti che saranno italiani, americani, cinesi e asiatici, e quindi forse dovremmo fare una riflessione a livello di sistema. Sia questo riguarda sia l'industria che poi le attività più di se vogliamo di headquarters, delle cose, che cosa deve succedere oggi in Italia per riuscire effettivamente a far sì che gruppi come questo non trovino più conveniente poi andare a Londra o andare in Olanda. Però mi scusi, secondo lei il governo in questo caso dovrebbe, la politica in senso dovrebbe dire qualcosa o no? Io per esempio sulla sede fiscale non ho tutte queste perplessità. Ho più perplessità sulla sede operativa, ripeto, lo dicevamo anche ieri. Marchione non può dire che la sede operativa della Fiat Chrysler è sull'aereo tra Torino e Detroit, non funziona esattamente così, perché la sede operativa vuol dire anche indotto, vuol dire anche teste, vuol dire anche ricerche, vuol dire anche insomma manager, non è solo l'aereo dove sta Marchione, per quanto Marchione sia importantissimo, e sulle garanzie che darà l'Italia, perché un paese ha anche diritto, voglio dire, non capisco perché i francesi possono farlo con Peugeot Citroën e noi non possiamo farlo con Fiat, con tutti i soldi che in questi 30 anni i contribuenti italiani e anche le banche italiane, riconosciamo le banche un ruolo importantissimo anche in quel caso, le banche italiane utilizzando i soldi dei risparmiatori italiani hanno dato alla Fiat, ce lo ricordiamo il Presto Ponte quando stava rischiando di chiudere, prego. Quel prestito ponte, comunque le operazioni di finanziamento delle banche sono state fatte allora a condizioni di mercato, quindi giusto, però erano banche italiane. Ecco, certo. Però va bene, però potevano anche essere straniere, quello va benissimo. Il problema è che effettivamente, per quanto riguarda la Francia, in questo momento lo Stato dà degli enormi sussidi per tenere delle attività produttive di Peugeot in Francia, perché le attività di Peugeot non sono sostenibili. Allora mi pare che la Fiat stia per presentare un piano industriale che prevede il mantenimento di tutti gli insediamenti produttivi italiani, quindi la ripresa delle fabbriche, e questo è un progetto di integrazione industriale che unisce le attività americane con le attività europee e con quelle asiatiche, che ha un suo senso, dove rimane un fortissimo baricentro di attività in Italia, poi quella che è la sede fiscale bisogna vedere che cosa comporta, ma sostanzialmente la cosa fondamentale è che le attività industriali rimangono mi pare in Italia. Poi certamente questo sarà un gruppo che avrà grosse attività in Asia, grosse attività in Europa e grosse attività in America, quindi dovrà avere degli headquarters che quindi questo è un po' il punto secondo me, però credo, mi pare di capire da quello che viene indicato, che ci sia una volontà a mantenere molte delle attività industriali o quelle che c'erano già prima in Italia. Questo è importante per la tecnologia, per la ricerca. È quello, sì, non è tanto solo per col massimo rispetto per l'operaio, ma non è solo per l'operaio, per tutta l'attività correlata di ricerca. No, ma per esempio l'idea del polo del lusso credo che implichi che tutta la ricerca che riguarda questo tipo di attività rimane in Italia. Queste sono quelle veramente ad alto valore aggiunto di cui abbiamo bisogno. Vabbè. Poi certo sarebbe bello che rimanessero anche gli headquarters, ma dobbiamo forse poi fare un ragionamento di contesto su che cosa si debba fare da questo punto di vista come paese. Grazie all'economista Giorgio Barba Navaretti. Grazie a voi, arrivederci. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. La borsa dunque più 0,38% Milano. Il caso oggi si chiama Todds perché è calata molto, moltissimo, meno 8%, meno 8,08% dopo i conti trimestrali. Bene Telecom invece dopo l'annuncio di Sawiris, il magnate egiziano, che vorrebbe entrare in Telecom Italia, più 1,46%, ma le Pirelli invece dopo che sono state smentite le ipotesi di acquisto di una parte della Pirelli da parte di Goldman Sachs. E infatti Pirelli cede il 7%, CNH Industrial, quindi il gruppo Fiat meno 3,41%, Campari meno 2,30%, Ferragamo meno 1,60%, Pop Emilia Romagna meno 1%, come Atlantia, Unicredit cede lo 0,70%. Fronte opposto invece ST Microelectronics, più 4,46%, Banco Popolare più 4,10%, Fiat più 3, Tenaris più 2,70, Ubibanca più 2,1, Enel più 1,70, Mediobanca più 1,5, Telecom più 1,40 come Unipolsai e World Duty Free. Migliori e peggiori in assoluto, li diamo in anticipo, oggi Arena più 14%, Bastoggi più 12%, Pquadro più 6,50%, Ciccolella più 5,70%. Peggiore in assoluto invece è Tolz e Pirelli già citate, CNH Industrial l'abbiamo detta, basta, poc'altro, EMS meno 2 e 36%. Radio Cori sulle 24 ore, come sempre, ci racconta la giornata di borsa. Chiara Di Cristoforo, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora Chiara, Pirelli e Tod's, i due peggiori, poi andiamo invece anche sul Banco Popolare e Fiat e Telecom. Partiamo da Pirelli, di fatto l'hai già detto tu, ieri il titolo proprio negli ultimi minuti di contrattazione aveva fatto più 7%, quindi di fatto oggi perde quello che aveva guadagnato ieri. Le voci erano di un'offerta su una parte della società, voci smentite a borsa chiusa ieri sera da Tronchetti Provera, e il titolo, come dire, ha fatto pari con il calo di oggi. Per quanto riguarda Tod's, il titolo peggiore con un meno 8%, qui i conti hanno decisamente deluso le aspettative e il consensus del mercato. Ci si aspettava un aumento del fatturato nell'ultimo trimestre dell'anno compreso tra un più 7 e un più 9%, è stato dello 0,8%, quindi molto al di sotto delle attese. A pesare c'è stato soprattutto il rallentamento della Cina, che era il mercato trainante, con un contributo dell'Italia che comunque è sempre debole. Quindi gli analisti oggi si sono affrettati a tagliare le stime di crescita sulla società e il titolo ne ha risentito. C'è da dire comunque che Tod's nell'agosto scorso aveva toccato i suoi massimi storici, quindi siamo comunque a livelli alti che, lo ricordiamo, riguardano tutto il settore del lusso. Per quanto riguarda invece i segni positivi, citavi Fiat, anche qui ieri aveva registrato un meno 4%, lo ricordiamo, i conti erano sotto le attese del mercato e c'era stata la decisione a sorpresa di non distribuire il dividendo, il titolo aveva iniziato immediatamente a scendere. Oggi sono arrivati molti report, gli analisti di fatto sono discordanti, alcuni sottolineano il fatto che il titolo è sopravvalutato, altri invece dicono che le stime sono positive, quindi in sostanza c'è una nuova rilettura dei dati e ha recuperato buona parte di quello che aveva perso. Per quanto riguarda ST, il titolo migliore della seduta, beneficia qui dei conti di Infineon, che è una società tedesca di semiconduttori, il colosso tedesco dei semiconduttori. Ha presentato dati che hanno sorpreso positivamente il mercato e soprattutto sono piaciute le previsioni, che quindi fanno ben sperare su tutto il comparto dei chip, dei semiconduttori, e quindi ST sulla scia è andata su. Ancora Banco Popolare più 4,10, qui oggi sono andate abbastanza bene tutte le banche, ma in particolare il Banco Popolare, da quando ha annunciato l'aumento di capitale da un miliardo, ha perso quasi il 20% in tre sedute. Esatto, da quella data ha perso il 20%, c'è stato un po' un effetto domino, e come dicono i ragazzi di oggi, ci sta un recupero. Esatto, al 4,10%, inizia un recupero, vediamo se prosegue, insomma. Allora, gli altri titoli dopo il GR, ma buonanotte, dopo le informazioni sul traffico, invece non ho capito l'obiezione di un ascoltatore che dice la sua ultima precisazione sulla faccenda delle banche, immagino le quote eccedenti che le banche hanno in Banca Italia che sono obbligate a vendere, però la Banca d'Italia può comprarsele con un esborso calcolato in 4 miliardi di euro e mezzo, e per quello detto che si palesa come un regalo alle banche. Dunque, la sua ultima precisazione sulla faccenda delle banche denota solo un'arrogante ignoranza. A noi non importa nulla di quello che pensa lei, vogliamo solo avere elementi certi che lei sembra non essere in grado di reperire. E me ne dia lei gli elementi certi, perché io più di raccontare cosa prevede la legge, la rivalutazione delle quote delle banche della Banca d'Italia, che obbliga le banche a vendere, non possono vendere gli stranieri, ma permette alla Banca d'Italia di ricomprarsi, io più di così non so cosa dirle. Però lei ha bisogno di certezze, che forse hanno a che fare più con Freud. Alle 17.52 riprende Focus Economia. Allora, Chiara Di Cristoforo, vogliono sapere molti ascoltatori di Facebook, qui una trimestrale ottima, devo dire, no? Sì, titolo, tra l'altro questa che sta sostenendo Wall Street oggi, insieme al dato del PIL, Nasdaq fa più 1,86%, è decisamente superiore alle attese degli analisti e il titolo sta correndo molto. CNH invece si distingue, Casey Holland, si distingue dal gruppo a cui appartiene, il gruppo Fiat, meno 3,41, quindi anche in maniera abbastanza significativa. Sì, sono arrivati proprio poco prima della chiusura di borsa, i dati erano attesi, il titolo era già debole in attesa di questa trimestrale, ma poi ha preso decisamente la via del ribasso. Non sono tanto i risultati a pesare, ad aver pesato, quanto le previsioni sul 2014, in particolare quelle sul debito, perché il debito 2013 è stato di 1,6 miliardi, sostanzialmente quello che ci si aspettava, ma nel 2014 CNH ha detto che si aspetta un debito tra 1,5 e 1,7 miliardi, quindi non solo non in calo, ma anche forse in crescita, mentre in media gli analisti pensavano a 1,2-1,3 miliardi, e questo sta un po' preoccupando. Allora, c'è un ascoltatore che vuole sempre sapere di Luxottica. Io ho capito che lei ha comprato Luxottica, ma non è che posso fare programma sul titolo Luxottica. Oggi si è mossa più 0,31, è andata molto bene nella trimestrale, bravissimo Andrea Guerra, lo diciamo sempre, il titolo si era mosso in maniera positiva. Però abbiate pazienza, non facciamo mica anche l'aggiornamento di borsa ad personam. Già ad personam in questo paese si è fatto tanto. Campari meno 2,31%, Ferragamo meno 1,60%, abbiamo detto. Direi a questo punto un ultimo commento, te lo chiederei in realtà su alcuni settori del lusso, ma soprattutto sulle banche. Abbiamo visto Banco Popolare cresce del 4,1%, Ubibank meno 2,16%, Unipossai meno più 1,45%. In realtà oggi erano abbastanza miste nonostante l'ottimo dato sull'asta. Sì, sì, infatti oggi è andata abbastanza bene perché le banche hanno risentito insieme al Banco Popolare di quello che dicevamo prima, di questo annuncio di aumento di capitale, che ha fatto temere che fosse il primo di una serie di annunci. Così non è stato, ci sono state anche delle dichiarazioni tranquillizzanti da questo punto di vista. Lo spread è in aumento, siamo in area 222 punti base, ma questo non preoccupa perché l'asta dei BTP stamattina è andata molto bene e questo è stato anche l'elemento che ha sostenuto Piazza Affari rispetto alle altre piazze europee in mattinata, che erano tutte molto più deboli. Allora, nel ringraziare Chiara Di Cristoforo, Radio Corriere sulle 24 ore, do una risposta anche a chi dice: ma perché lei parla di regalo alle banche se la Banca Italia compra le quote che loro non riescono a vendere sul mercato? Potrebbe anche guadagnarsi, sì, diciamo, il guadagno è aleatorio, è possibile, quello che è certo è l'esborso. E poi non si capisce perché la banca centrale di un paese debba comprare le quote dei suoi azionisti, le banche, se non riescono a collocarle sul mercato. Io veramente non lo capisco, cioè, mi sfugge qualcosa, le collocassero sul mercato ai prezzi che riescono a trovare sul mercato. GR, e poi invece ci occupiamo dell'accordo Italia-Svizzera da un lato e di Telefisco dall'altro. Alle 18 e 8 minuti torna Focus Economia, con voi come sempre Sebastiano Berisioni. Adesso parliamo del rientro dei capitali, del tentativo di un accordo con la Svizzera per far rientrare i capitali che sono depositati nelle banche svizzere. Ancora una chiosa però sul decreto IMU Banca Italia. Allora, abbiamo spiegato in tutti i modi che la Banca d'Italia, secondo la legge, non è che deve riacquistare queste quote, ma può. L'abbiamo detto in tutti i modi possibili. Detto questo, a mio avviso resta molto molto singolare questa possibilità. Faccio notare a chi scrive che anche la Banca Centrale Europea ha avuto da obiettare sul tempo in cui la Banca d'Italia dovrebbe tenere queste quote acquistate dalle banche, perché non è chiaro il tempo ed è quantomeno perplessa. Dopodiché l'abbiamo anche detto, può essere che la Banca d'Italia acquisti queste quote in eccesso delle che le banche hanno nel suo capitale, mi sembra già un monstrum comunque, e vendendole ci guadagni, però questo è aleatorio. Poi andremo a vedere se, come temiamo, la Banca d'Italia acquisirà le quote che le banche non riescono a collocare sul mercato, potendolo fare, oppure se non lo farà per nulla, che in quel caso, diciamo, sarà uno sventato pericolo. Fine. Allora, da Berna, Alessandro Galimberti, buonasera. Buonasera. Immagino che tu non sia lì per esportare capitali, Alessandro, ma per raccontarci come è andato l'incontro tra il ministro dell'economia nostro Fabrizio Saccomanni e la sua omologa svizzera Evelyn Wiedner-Schlumpf. Erano circolate voci, indiscrezioni di stampa oggi di un incontro che sarebbe stato già sostanzialmente che sarebbe già fallito prima ancora di iniziare. Ricordo che in ballo c'è il voluntary disclosure, quindi nel decreto pubblicato nella nota in Gazzetta Ufficiale è prevista la collaborazione volontaria con cui il governo consente ai contribuenti di dichiarare gli attivi detenuti all'estero beneficiando di sconti sulle sanzioni amministrative e penali. Però ci sono due punti essenziali: il pagamento di tutte le imposte dovute e il superamento dell'anonimato. Un'operazione dovrebbe essere attivata direttamente dal contribuente, che potrà sanare la propria posizione con il fisco entro il 30 settembre 2015 per i capitali depositati oltre confine fino al 31 dicembre 2013. Sono ammessi, oltre alle persone fisiche, anche le società semplici ed equiparate, gli enti non commerciali, quindi non le società di capitali o enti commerciali. Non è uno scudo fiscale, non offre le stesse protezioni negli stessi sconti di quei condoni che furono lo scudo fiscale. Il Tesoro oggi ha avanzato previsioni sui possibili incassi, Alessandro? Ma non ancora, perché tutto dipende da calcoli e da situazioni soggettive che sono davvero molto diverse e molto complicate dal punto di vista del calcolo. Volevo riagganciarmi a quanto dicevi prima: l'atmosfera qui, al di là dei toni molto arrotondati e dei comportamenti diplomatici, è abbastanza tesa. Ecco. Perché Saccomanni, che è intervenuto dopo il presidente della Confederazione Elvetica di Diepurkalt qui all'avvio del forum per il dialogo, si chiama paradossalmente forum per il dialogo, ha usato toni molto chiari, molto poco diplomatici, e cioè l'Italia sul tema della voluntary disclosure non torna indietro. Il governo intende convertire la legge, il decreto legge che tu hai illustrato molto bene poco fa, e che non ha nulla a che vedere con gli scudi, non ha nulla a che vedere con la perdonanza, come la chiamano oggi qui gli operatori a Derna. Il governo non farà retromarcia, ha detto Saccomanni, e il trattato per il rientro dei capitali della Svizzera, che è una cosa che corre parallela ma che non ha niente a che vedere con la disclosure, ha sottolineato Saccomanni, non darà nessun trattamento preferenziale all'evasore fiscale italiano. Quindi le sanzioni penali, quando avranno luogo, perché ci saranno anche per la voluntary, come abbiamo scritto molte volte sul Sole 24 Ore, per i reati di frode fiscale, i reati rimarranno anche nell'eventuale trattato con la Svizzera e rimarranno tutte le sanzioni civili, amministrative e fiscali. A questo punto, chi ha più interesse a fare il trattato sul rientro dei capitali? Paradossalmente in questo momento interessa la Svizzera, perché sul piatto della bilancia la Svizzera ha la blacklist commerciale, che è un problema gigantesco per un paese che è conosciuto nel mondo soprattutto per i servizi finanziari, ma dove i servizi finanziari, cioè le banche, rappresentano solo il 15% del PIL, che è fatto soprattutto di industrie, per esempio la farmaceutica, quella del lusso, ricordiamo gli orologi. Rimanendo in blacklist, la Svizzera avrebbe delle grandissime, ed è il motivo per cui già l'anno scorso la Svizzera chiedeva di fare l'accordo Rubik con l'Italia, che era una cosa molto diversa, che avrebbe garantito l'anonimato dei contribuenti, eccetera. La Svizzera preme perché ha bisogno, per la sua bilancia, non per la sua bilancia commerciale, ma per la sua operatività commerciale, di uscire dalla blacklist. Per uscire dalla blacklist deve fare un accordo anche fiscale con l'Italia. Per fare un accordo fiscale, oggi Saccomanni ha detto, le regole le dettiamo noi, e questa cosa dà molto fastidio agli svizzeri. Eh sì, però potrà dare fastidio agli svizzeri, con massimo rispetto, però fino adesso si sono avvantaggiati di capitali illegalmente là depositati, e quindi adesso accettino anche, come hanno fatto con gli Stati Uniti. Cioè, non vorrei che quando alza la voce l'America tutti pronti all'accordo, e adesso che c'è l'Italia si cerca di trattare. Insomma, qui c'è un vantaggio per far rientrare questi capitali, perché c'è un vantaggio, non c'è un vantaggio fiscale, questo va detto, e non viene garantito l'anonimato. Prevedi che si arrivi però a un accordo, oppure... Ecco, anche su questo punto Saccomanni è stato molto chiaro. Lui ha detto il 20 e il 21 maggio il Presidente della Repubblica Italiana sarà qui a Berna, ospite in viaggio ufficiale. Io conto, ha dichiarato alla presenza di tutte le autorità più importanti svizzere, ha detto io conto per il 20 e 21 maggio di arrivare a regalare, diciamo così, questo accordo alla visita del Presidente della Repubblica. E poi ha aggiunto, i giorni per gli evasori sono ormai contati, ma si riferiva a quelli svizzeri, perché in Italia li possiamo contare a lungo. No, si riferiva a quelli italiani, perché la cronologia è proprio questa. L'Italia ha fatto il decreto legge sulla voluntary, che non è uno scudo, fa alcuni sconti ma chiede il pagamento di tutte le tasse, del minimo delle sanzioni, lo fa e apre una finestra, come dicevi tu, temporale fino al 2015. Perché? Perché dal luglio del 2016 verosimilmente anche l'Italia, la Svizzera e tutta una serie di altri paesi OCSE saranno dentro lo scambio automatico di informazioni fiscali. A quel punto chi non avrà fatto la voluntary dei contribuenti italiani verrà quasi sicuramente, quasi inevitabilmente scovato, certo, dai semplici scambi di dati informatici. Non ci sarà più bisogno della richiesta, della compiuta, certo, ma nemmeno della richiesta, perché saranno, l'agenzia fiscale italiana potrà chiedere con la Svizzera tutta una serie di posizioni fiscali e dovranno agire su un piano di automatismo, quindi senza nessun impulso della magistratura, senza nessun controllo della magistratura. A quel punto quello che oggi è un pagamento di una sanzione comunque fastidiosa e di tutte le tasse ritratte diventerà un prezzo, un costo insostenibile, perché le sanzioni saranno il 480% del capitale illecitamente detenuto all'estero. Per questo Saccomanni oggi dice non ha più scampo l'evasore fiscale italiano. Sì, questo era anche per rispondere agli ascoltatori che dicono: beh, ma cosa rischia chi non dovesse aderire? Rischia di pagare con ottima possibilità, perché tra l'altro appunto nel 2016 c'è lo scambio automatico delle informazioni, il 480% di quanto depositato in Svizzera. Cioè, ci rendiamo conto? In Svizzera, poi mettiamo anche gli altri paesi. Sì, no, hai ragione, dico Svizzera, hai ragione. Dico Svizzera perché questo è l'accordo bilaterale. Ultima domanda, non c'è il rischio che più ne parliamo, più questi capitali della Svizzera si spostino a Hong Kong, in altri paradisi più o meno? Lasceranno traccia, perché ormai sono tutti, cioè non vengono più portati con le cariole e nelle tasche, il denaro elettronico lascia traccia e quindi c'è una possibilità di sanare gli illeciti commessi, dicevi tu prima giustamente, fino al 31 dicembre, illeciti fiscali fino al 31 dicembre 2013. Inoltre non dimentichiamo che tra poche settimane, ha promesso il premier italiano Enrico Letta, verrà approvata anche la nuova norma sull'autoriciclaggio, un reato che oggi in Italia non esiste e che permetterà sostanzialmente una cosa, di punire, per un reato gravissimo perché è punito con pene da 4 a 12 anni, anche il semplice evasore fiscale che dopo aver occultato i soldi al fisco li fa sparire all'estero, in Svizzera. No, perché mi scrivono gli ascoltatori, non so, diciamo, immagino che siano attendibili, che molte banche svizzere hanno già proposto ai grandi clienti di spostare i soldi a Singapore, non so se sia... Singapore già dal luglio dello scorso anno aderisce a tutti gli standard di informazione OCSE, quindi è meno sicuro oggi della Svizzera, quindi sono dei consigli avventati. Bisogna che anche le banche svizzere in realtà già da oggi sanno che sta cambiando anche la legge federale sull'antiriciclaggio, tra poco verrà il Parlamento svizzero, dovrà introdurre il famoso articolo 305 bis del codice penale svizzero, che considera tra i reati presupposti del riciclaggio, cosa che fin oggi non succede ma succederà tra pochi mesi, anche l'evasione fiscale commessa sul territorio, commessa da persone che stanno sul territorio svizzero. Certo. Quindi un deposito di oltre 200.000 franchi, la soglia è molto bassa, in una banca svizzera che sia provenienza di dinero fiscale fa scattare il reato di riciclaggio anche in Svizzera. Con l'obbligo della Consob svizzera, insomma dell'autorità di vigilanza sulle banche della Svizzera, di fare segnalazione alla magistratura svizzera. Quindi è una bella rivoluzione anche per la Svizzera, va detto con massimo rispetto. È pericoloso affidarsi ancora ai praticoni, cioè lo dico a chi abbia ancora molte idee. Io non lavoro per l'agenzia fiscale, come sai, ma per il Sole 24 Ore, però bisogna avere l'onestà di dire che oggi fare delle operazioni spericolate con dei praticoni sta diventando State molto attenti. Pericoloso. No, ma hai ragione a mettere in guardia, perché poi magari ci può essere il singolo soggetto che propone, no, ma ti riporto a Singapore, così, non avvertendo dei rischi. Attenzione, conviene, ma io lo dico così per quel poco, non ho capitali in Svizzera, a meno che io sappia, poi in questo paese i capitali possono essere anche a tua insaputa, abbiamo visto, ma diciamo, attenzione, perché in questo caso, dopo il giro di vita americano, tutto sta cambiando, anche in Svizzera, come tu ricordavi molto bene, c'è un motivo di politica anche estera, chiamiamola così, per cui la Svizzera vuole uscire dalla black list in cui tuttora è. Grazie a Alessandro Galimberti, collegamento con noi da Berna. Il traffico, e poi restiamo in tema di fisco, perché si è conclusa praticamente la 23esima edizione di Telefisco, ospite qui a Sole 24 Ore questa mattina Attilio Beffera, e faremo anche un bilancio parziale, perché ancora molte domande devono essere evase. Si poteva partecipare in streaming, oltre 100 sedi in tutta Italia collegate. siamo tutti un pochino delusi. È chiaro che la semplificazione, la grande semplificazione, richiede un impegno e dei tempi abbastanza lunghi. Mi sembra però che si stia rimuovendo qualcosa sulle semplificazioni che avevamo concordato con le associazioni di categoria, a parte i provvedimenti che ho già assunto io come direttore dell'agenzia, ma credo che in Parlamento si muova il disegno di legge sulle semplificazioni che erano state concordate. La delega fiscale, che presenta caratteristiche anche di forte semplificazione, è oramai praticamente quasi approvata da un ramo del Parlamento e andrà in terza lettura. Credo che si cominci anche un po' a ragionare su ipotesi di revisione delle norme che si sono accavallate negli ultimi tempi. Quindi qualcosa si sta muovendo proprio nel senso della semplificazione. Notizia economica del giorno: tra ieri e oggi nuova sede legale e soprattutto fiscale per Fiat. Qualche editorialista ha sottolineato il silenzio dell'Agenzia delle Entrate. Lei che cosa risponde? Che noi lavoriamo in silenzio e stiamo lavorando. Quindi il fatto che Fiat non pagherà più le tasse in Italia? Ma questo è un fatto naturale: chi viene in Italia paga le tasse in Italia, chi va fuori d'Italia paga le tasse nel paese dove fissa la propria residenza. C'è la libera circolazione di capitali in Europa, nel mondo, in Europa in particolare. C'è una exit tax e Fiat pagherà, se dovrà pagarla, l'exit tax. Così Attilio Beffera, direttore dell'Agenzia delle Entrate, intervistato dalla nostra Maria Luisa Pezzali all'ingresso della sua partecipazione questa mattina a Telefisco. Mauro Meazza del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, come è andato Telefisco? Telefisco, bene, bene, grazie. Telefisco ha avuto il record di sedi già stamattina in partenza, 110 sedi collegate in tutta Italia. Stiamo aspettando il dato definitivo, ma sarei fiducioso nel dirti che abbiamo probabilmente anche avuto un record di partecipanti, quindi non dico il numero per pura scaramanzia. Invece abbiamo avuto dei chiarimenti importanti. Ecco, le domande, perché Telefisco serve anche per chiarire non solo ai commercialisti, anche ai normali contribuenti alcune cose che il nostro fisco, tanto semplice, tanto agevole, tanto intellegibile, ogni tanto però ci lascia. Prego. Ci lascia dei dubbi, ci lascia anche delle, come dire, delle paure vere e proprie, quali quelle che si sono probabilmente addensate attorno al redditometro. Il redditometro è stato uno degli argomenti più cliccati, vi viene da dire, perché Telefisco ha avuto tutta una partecipazione anche dalle sedi con domande inviate alla casella mail. Lì le entrate ci hanno anche detto, l'Agenzia delle Entrate, che come sai partecipa a Telefisco, ci ha anche detto delle cose interessanti. Perché Beffer ha detto che i controlli non saranno esagerati. Sì, l'intervista a Beffer durante Telefisco, fatta appunto dal nostro vice direttore Salvatore Padula, da Jean-Marie Delboc, che è a capo della redazione di Norme e Tributi, è stata rassicurante sul punto. La potete rivedere tra l'altro sul nostro sito, sul sito del Sole 24 Ore. Ma nella parte poi delle risposte abbiamo avuto qualche precisazione un po' più puntuale. Beffer ha detto: non esagereremo con i controlli. Questo ha confermato una linea, quindi saremo morbidi. Però le spese Istat, qui c'era un problemone legato a utilizzo le medie Istat per attribuirtele, dicendo: guarda, non è possibile che tu spenda meno di questo per queste voci o queste altre, perché mediamente l'Istat mi dice che bisogna spendere così. E queste spese Istat erano state escluse, adesso però per alcuni valori, ad esempio la manutenzione alla casa o quella dell'automobile, rientrerebbero in qualche modo nel gioco, così ci ha precisato l'Agenzia delle Entrate. Lo spieghiamo poi meglio domani, perdonate, sono molto grossolano, ma meglio domani perché sul Sole 24 Ore. Delle spese che l'Istat dice: tu per l'automobile, per la manutenzione della casa non puoi spendere meno di una quota parte del tuo reddito, entreranno nel redditometro. Era un punto molto conteso, perché in realtà, oltre alla disponibilità materiale che è tracciabile appunto dai conti correnti, dai risparmi, da quello che può essere appunto un'eredità, eccetera, si discuteva se si potesse attribuire la spesa Istat, cioè si dicesse: se lei, signore, vive in una casa di 100 metri quadri, mi spiace, ma non possiamo accettare che spenda solo, invento, 25 euro l'anno per mantenerla, ecco. Perché la media Istat ci dice un valore diverso. È un po' opinabile, conosco gente che arriverebbe sotto la media Istat. Comunque, altre domande frequenti, Mauro? Altre domande frequenti naturalmente sono sulla sanatoria delle cartelle e poi il rientro del stesso dei capitali, ma ne abbiamo parlato a lungo con Galimberti. ti rimando la sanatoria delle cartelle Equitalia, immagino forse la sanatoria delle cartelle Equitalia, che comprende, come sai, anche quella delle multe stradali, quindi questo è un tema anche che mi vede particolarmente sensibile, mettiamolo così. Bene, allora se sei sensibile ti preciso, ti ricordo che appunto scade a fine febbraio, quindi hai qualche giorno di tempo per pensarci. Devi pagare, no, pagare. Scusami, io ho presunto che tu avessi delle cartelle, delle multe. Hai presunto bene. E non si pagano appunto gli interessi, il resto si paga, quindi puoi sanare la tua posizione così riducendo l'aggravio. Allora, tutte le altre informazioni, a parte gli scherzi, sul sito del Sole 24 Ore, continuano ad arrivare le domande e nel corso dei prossimi giorni gli esperti continueranno a rispondere, lo dico come sempre perché Telefisco ha una sua struttura che funziona benissimo proprio grazie anche agli esperti che continuano a evadere le domande. Diciamo la cosa, tu hai giustamente citato le rassicurazioni di Befera, la cosa che invece ti ha rassicurato meno, per non dire che ti ha lasciato più preoccupato? Ma da parte del direttore? E in generale, sì. No, beh, diciamo in generale è che, ad esempio, proprio su queste sanatorie delle cartelle e su alcune posizioni, l'Agenzia delle Entrate mantiene comprensibilmente però delle posizioni abbastanza di chiusura. Quella del redditometro che spiegavo prima, appunto, le spese medie Istat, è una posizione abbastanza di chiusura. Anche questa sulle cartelle, hanno precisato, se poi ci avete fatto, voi avete fatto causa e magari sanate la vostra posizione, pagate la sanatoria, però poi vincete la causa, mi spiace ma oramai è in cavalleria, quello che è dato, chi è dato ha dato, chi ha avuto ha avuto. E fine, fermati lì perché poi andiamo anche in maniera più volgare. Grazie a Mauro Meazza del Sole 24 Ore. A voi. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Devo leggere ancora due lanci d'agenzia del premier Enrico Letta su Electrolux. Non alzeremo bandiera bianca, anche se trattandosi di Electrolux, aggiungo io, sarebbe molto pulita. E poi faremo nuovi passi sul taglio del costo del lavoro. Noi ce lo auguriamo, anche perché, ripeto, non voglio tornare sulle polemiche, ma il fondo previsto per riduzione del cuneo fiscale è già in parte svuotato delle sue risorse. Il Sole 24 Ore l'ha spiegato molto bene. Ci hanno agganciato anche la cassa integrazione in deroga, il finanziamento delle missioni italiane all'estero, quindi quei soldi in buona parte non ci sono già più. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.